appena accendendo e niente, non sentite nessuno, no, bene. Ascolta, fa un controllo questo microfono, se sta uscendo bene, bene. Ti ho sentito meglio con altri. Come? Ti ho sentito meglio con altri microfoni. E questo è il Proxel. Ma mi sembra strano, usciva sempre bene, ma non è sempre lo stesso, eh? No. Vabbè, adesso parlo vicino, vedi un po' adesso. Beh, adesso cambia un attimo. Cappa di noce. Parogero, anda bene, vera. Se così già va bene. Ma sai cos'è? Devo parlare troppo attaccato alla bocca al microfono, capito? Attaccato? Segnalate che non è molto percettibile, boh. Dice che la capsula. Problema alla capsula questa qua, dai. Sì, probabilmente. Comunque non era così quel microfono, poi l'ho sentito meglio, molto molto meglio in altre occasioni, perché se voglia è successo qualcosa. Non saprei cosa dirti. Cercarlo, tutto il pezzo, cambiare il pezzo, tra una cosa e l'altra. qua si va la casa tutta la casa. Saturazione, super saturazione. E così com'è? tu fa un BL, bu. Adesso lo stai innescando, adesso è più pulita. No, ho toccato, ho staccato il BL, ho riaccendi il BL. Il microfono è riattaccato. Lo stai innescando adesso, adesso va meglio. Adesso va meglio, anche la radio va meglio. Gappa, gappa, adesso il mischi non ne hai. Allora il BL è appena riuscito, bu. Senz'altro qualcosa ci avrà. Prego, ma sempre fermo un po'. Cappa di rogero. Quella soffetta di quant'è, vedi? Mi butti tutto in culo. Cappa di rogero. A me questa si sente adesso che è amplificata, è un microfono da basso. Microfono? Che è un B+4, si sente adesso. Sì, già va bene, già va bene. Non stai innescando, già va bene. Grazie. Bene, questo come sta scendendo il microfono, bene? Molto meglio, ha cambiato, ma molto, Mauro. E quanto? Non ti posso dire, quella era, quando qua è più corposo, più grossa. Ah, cappa di roccia, va là. Andrà bene allora, dai. E questo qual è? Già è buono, A me sta dicendo, qual è questo? Sì, questo qui che stiamo usando adesso, qual è? L'MB più 5. Questo è più corposo. Cappa roccia. Quello devi regolare, però, mi deve essere ancora più forte. Lo so. Ma finché esce bene, lo lasciamo così. Finché esce bene, lo lasciamo così. Poi lo regoleremo. Cappa. L'importante è che mi senti bene. Poi già si può regolare. Cappa. Sempre quanto sono i Santiagoli? Sempre 9.10, sì, sono più. Cappa, la radio è pulita, bella, perfetta. E andiamo, perfetto. Cappa de Roche. Già andrà bene meno, vuol dire che l'apparato già è buono, Come? Ciao Pupo! Aspetta quando schiacci di lì. Ciao! Ciao bello! E allora, con Babbo sì al baracchino, Sì! Già va bene, già bene. E quanti anni ha? 8! Mette? 8! Ah, 8 anni hai? Aspetti, e come ti chiami? Samuel? Sì. Cava. Bene. Ora, Mario, andateci sì con Babbo oggi. No. Non ti ha portato Babbo? No. Ai, benito. Grazie, sono un tempo, non ci abbiamo mai. E tu sgridalo a Babbo. Bene. Non voleva uscire. No. C'è battaglia, è lì. Se c'è battaglia, è Benito, no, così è. No, sì. Mamma, lo so io. Io no, ma stamattina in chiesa, poi a catechismo, poi lì. Sì. Dove trabacchi domani? Domani sono una radio. Esci. A Uschidi. Eia. Cava. Domani sono con un collega, dobbiamo fare un carico di gomma. Positivo. Comunque prima non modulavi perché non avevi antenna, vedi? Perché c'è la roccia che si è rotta all'inizio d'inverno, là. Ah, cappa. E quella che te l'ha data, Salvatore? È la mia stessa, prima di buttare dritto, sa, prima di buttarla. Mi sono messo, ho detto, fai buttata questo, mi provo a smontarla del tutto, poi se si rompe la molla. Cappa. No, già va bene, dai. Ma non sta andando bene, perché non so se arriva poi intorno a 9.5, 9.10. Infatti è strano, molto... Santiago molto, molto basso, diciamo, dai. Però la radio è abbastanza comprensiva, dai. Con quello lì, 9.20, 9.25. Cappa di roccia. Cappa Rogero. Sicuramente era forse lo spinotto da poco fa, mi, che non lo stava facendo andare, però lui ha fatto un odore da molto, pieno di polvere. Senz'altro, un po' di polvere, un po' di cose, e beh, lo fa logicamente. Adesso bisogna farlo scaldare bene, anzi, prima di tutto abbassata l'aria, e li fanno scaldare bene per cappa di roggero. Soffiato, magari c'è polvere, e ne scava, niente di strano, ne scava per quello. l'avevo sempre. Ah, beh, la massa ci vuole lo stesso. E gli ho fatto tutto oggi, mi hai capito? Sì, già ti ho capito, hai fatto tutto quanto oggi. E vabbè, adesso pian piano metti a posto le cose, dai. Sì, se voglio mettere a posto anche l'altro, se ne lo scendo. Così almeno lo faccio scaldare e lo metto dove ce l'avevo prima. E quale? Quello già sono a soli. Ah, su a casa di tua madre? Sì. Ah, KK. KK di Roggio. Quello l'ho sempre avuto io, amico. Sempre io l'ho avuto. Lui l'ha usato, guarda così, 3 mesi in tutto. Ma non devi lasciare il fermo quello, lo devi far girare se venisse, se no si guasta. No, e lui l'accende la mattina, si innanda, tipo a mezzogiorno torna e mi rifiuta. Ah, già lo accende già. Sì, già è sempre efficiente quello, perché se quando non l'accende lui me lo dà a me e lo uso io. Scappa di rogio. Quello c'aveva la linea completa, capito? Cosa aveva? La linea completa, c'aveva tutto quello che c'era attaccato a quella cosa, ce l'aveva lì. Ah, KK. Capito, dall'alimentatore all'accordatore, alla cassa esterna, tutto. KK, ma mi sa che dice che non doveva fare i soldi quello. Io l'ho fatto in dinamica, già gliel'ho detto io. Detto, non sto usando, non torni. Ah, KK di Rogero, andà bene, veda, e che apparato è quello, vedi? Il 130 della Kimwood, linea completa. Ah, andà bene. Quello tanti anni fa, mi è guidato un patrimonio. Ci credo, di cosa un patrimonio. Ci credo. Poi lui l'ha comprato perché non era completo, quando l'ho fatto io. Poi lui l'ha messo la casa esterna, gli ha messo l'accordatore, capito? KK, ma l'apparato è sempre tuo, in poche parole. È suo, adesso è suo, ogni tanto sui giambemmo, tu mi dai questo, io ti do quello, capito? KK di Roccia. Tipo, dammi la moto e pigliati il baracchino, capito? Se no, vieni, riprenditi la moto e dammi il baracchino. Ho capito. Andà bene, Meda. Mi mette da posto, sto qua e buttando, me li roba. E cosa stai buttando? Tipo carburatori di moto, che ci avevamo preso di questa, ma avevamo regalato pezzi di computer, pezzi di, quello di borsi di colonnine, cose vecchie. Ah, KK. E da buttarle al vento, le quelle sono importanti. No, quelle ce l'ho tutte da una parte, gli sepatori, ecco, tutte da una parte. Ah, KK di Rogero, e andrà bene. Quelle ventole grandi, ventole piccole, quelle che ci vanno dentro il processore, poi ce le ho tutte da una parte. KK di Rogero. Schede video, schede audio, quelle me le metto tutte da una parte, capito? Eia, già ho capito. Infatti devo dare, a Rita devo dare un paio di schede video, un paio di schede audio, che lei c'ha un problema sul computer suo, ogni tanto quando si mette a fare il karaoke mi si brucia qualche scheda. Ah, gliela dai tu allora? Qualcuno quando capita gliela do, capisci? KK di Rogero. Infatti devo dare un computer per la figlia, un'unità centrale, e poi la figlia ce l'ha lì. Già va bene. A te, tu ce l'hai il computer, sì? No, negativo. Non ti piace? No, non mi piace proprio usarne. Che se no noi ne capita ogni modo. Di che cosa? Ma di tutto qua. A prigio. Non ti preoccupare, tanto è roba riciclata. Allora buscavano uno. Ma non mi capita. dico com'è, se ti va bene così. A me interessa pure quanto ne vuoi, soprattutto. Non c'è problema, ma noi diciamo sai, se quello che c'ho ti do, quello che mi serve se ce l'hai, me lo dai, capito? È positivo, là. E allora già va bene così, dai. Noi siamo una vecchia scuola, non ti rammenti. Mi, ce l'ho io, prenditelo. È positivo, già lo sai, alla Sisa. Noi di Dina, c'è ancora a casa, là. Quando arriva, oh, non pensi di me, faccia, sì, mi, te, Pirandini. Quello mi serve di Barmanuco, ce l'ho io, te. Ah, capito, scappi. Sì. Allora sai bene che c'ho ancora... Ti ricordi bene che ci aveva tuo fratello? E quale? Il Garilli che ci aveva tuo fratello. Sì, Antonello. Ehi, Antonello, io ce l'ho rosso. Pensa un po'. Lì qua c'è come c'è il mio vicino, c'ha il DP4. Da una parte, non mi devo dare. No, è perché... Era la sua prima moto, la sua convincente, adesso me la dà. KK. No, questo è funzionante, mi bene. Funzionante, guarda. Se... Adesso vediamo, va. Se la vuoi, sali e te la porti via. No, questo qui è il DP4 a marcia, tu c'hai il noi, No, quella c'è l'attore, ti ricordi con i pedali. Gli altri capito, no, a me mi interessa quello là che c'è lui. Si troverà. Sì, andiamo là, piano là. E qua davanti c'è un Interjet di quel Franco Murino, te ne ricordi? Questo qui è del 1972. Adesso devo finire di mettergli a posto i pezzi, che cos'è stato il mio figlio più grande, lui c'ha l'altra, no? La... come si chiama? Italjet, un motocross. Ah, perché la usa tuo figlio? Una è di mio figlio e l'altra è la mia. E ti giuro che non ti. E più? Una è di mio figlio e l'altra è la mia. Ho capito. Sempre a marcia, è bene. No, piccolino acceleratore. Quale motocross piccolino acceleratore? Ah, ho capito. Quelle da ragazzini, dai. Sì, quelle lì. Io non vado a dire, questa una è la sua, e questa qui sta mettendo a posto la mia. Parla. Quella c'è è la mia, quella rossa è la sua, tu parlo. Ehi, abbiamo capito. Manuel, lo so che la tua, una è la tua e una di Babbo. Sì, però la mia ancora gialla. Perché la tua è più nuova, capito, è più bella. Ah, ho capito. Ma anche Salvatore questo ne ha una da pista, piccolina, così. Quella di troccata, io sono là, l'ha comprata, la piazza della butta in vita. Neanche un'altra ne ha, che deve essere un po' più grandetta. E più dietro sotto al coso c'ha ne ha una tipo questa qui di mio figlio. Ah, cappa di rocero. Quella bianca e rosa, l'hai vista? No, ho visto quella dentro casa e basta. Quella bianca e rosa quando c'hanno i miei nipoti, gli altri figli di Giuseppe, si raggiungano. Poi non c'ha Giuseppe, un'altra mia da strada, a tre ruote, però ve l'ho fatta io. Ah, cappa. Ah, ma questa è Giuseppe. No, già, sono un giorno senza vederlo. E Giuseppe abita nella prima curva di sotto, visto che ci vuole con l'entrata a sinistra. Infatti, quando sali per la strada di sotto, proprio quando fai la salita, c'erano quelle querce grandi, quegli alberi di pino, non querce. Quella è casa tua, la casa che si vede alla strada, quella lì è la tua. Ah, cappa. No, perché io... Vabbè, parlo di un casino d'anni, la verità si dica. Sapevo che lui era fuori in continente. Prima, era sempre fuori, andando e tornando però, per Carmelo. Ma che lavoro fa Giuseppe? Giuseppe è il segretario di Carmelo Porto. Ah, gabba di roccia. Gabba Rogero. Segretario è un'autista personale. E già va bene, già. bene. Cosa ha fatto caro? Sei in campagna, in via. Insomma, bisogna andare in campagna tutti, dai. Consuma poco. c'è carburata bene. C'è carburata male, dai, tu strada e tira avanti. Quindi ci devi mettere a mano tu, Sergio. La carburazione già te la devi saper fare tu, perché io l'ultimo periodo che stavo usando adesso questa Opel Astra che c'ho e scendi di gambo, poi ho scoperto che il motore ormai era frattato, capito, e non andava più bene. Era adatta così? No, ce l'ho qua, non l'ho adatta, perché il mio bito lo stesso, mi ha fatto lo stesso difetto ed è fermo qua. Maggiolone! Il Maggiolone! Adesso lo c'ho solo e compro tutti e due i motori e così ce li ho di nuovo a posto. Ah, li vendono i motori? Sì che li vendono, solo che da chi se li vende via non lo utilizziamo, ma non lo ricordo. Però quando sei ricco? Anche lo vostro. Via Marcita? Su internet li trovi a proprio alla metà di quello che li vende lui. Sempre della stessa fatta fare così. Guarda, 100 euro, 150 euro ti dà del tuo canto, mi trovo. È una macchina completa, quanto costa? Se te la vuoi prendere tu, intorno ai 500 euro e te la piazzi. Ma come la fai in se la vuoi già piazzata, non dipende però da che spinta vuoi di motore. Ma ci sono diversi cilindrate, sono gli stessi tipi di macchina, sono gli stessi modelli. Dipende dal motore che lo vuoi, guarda quanto lo vuoi, capi, se lo vuoi più spinto, meno spinto, se ti serve una cosettina così giusto per imparare. Io ho visto gli elicotteri, gli aerei, se penso che si avrà abbinato con l'aereo, si è fatto tutta a pezzarina. Ah, a me piace l'elicottero, guarda, l'elicottero però è un trupidino. Ma non so, l'elicottero è bello, anche a me piace, però un certo tipo di elicottero, dici gli elettriti non mi piacciono. Mi piacciono i tipici elicotteri tipo quelli per intenderci dei vigili del fuoco, così. Anche a me piacciono quelli, però a me piace più, vuol dire, non c'è, è troppo grande e troppo piccolo, capito? Uno via di mezzo. Così lo avuto io. Sono andato a provarlo, l'ho preso da cinesi, portavano a 40 euro. Vado a provarlo, sono andato a provare in un campo da tennis che sopra c'è la rete. L'ho provato, sono andato a metà quota così, tanto per farlo volare. Poi sono andato a riabbassarmi e ha continuato a salire. Non funzionava la leva per abbassarsi, cazzo, è andato sopra la rete, come ha preso la rete e l'avrei buttato giù, spiro frantumato, terridente. Non sei riuscito a giocare? No, ha spaccato tutta la plastica che c'aveva. C'era elettrico qui. Ma guarda che quelli sono vedi. Era elettrico. Io uno di quelli lì, se riesco a trovarlo elettrico, me lo prendo. E poi la cinesi di dove? Me l'ho comprato io c'ho ancora il caricabatteria. La cinesi dove? Io l'avevo presa a Platamona, dico la verità. E ne volevo a 60. Ho detto, dai, 50. Che cinesi li vizi di me, che abbassano. Sentite, di chi si dove? Questi si no, tra cinesi e polacchi non abbassano mai di prezzo. E ho detto, guarda, c'è solo 40, dammeli, dammeli. E me l'ho preso blu e bianco, già te la vedo. Adesso però sono troppo. Lì però ci vuole il campo a provarlo, capito? Ci vuole un campo di modo che se cada non si può salutare. Prima, la prima cosa da fare è andare a Platamona nella spiaggia, di modo che se ti cade, allora che ti cade il mare. Se ti cade il mare è difficile, peggio, è come che l'hai spaccato. Facevo la carica tutta la notte, l'attaccavo la carica, il domani lo prendevo, poi Marco, mio figlio, lo voleva e io prima di farglielo provare a lui, lo volevo provare io. L'ho provato in casa, volava bene, tre ragazzi, a metà lo facevo volare passo passo, poi lo facevo girare, poi sono andato dove c'è il CISO, non so se lo sai, via Pirandello, dove io faccio servizio ambulante, c'è i capi da tennis di fronte. Io lo so. Sono entrato lì dentro, aperto il cancello, così se dovessi scapparmi da controllo, non si sbatte su nessuna macchina, non fa danno, capito? Hai una girata cadavere? Non mi ha funzionato la leva che lo faceva passare. Cioè, sono salito, l'ho metto a conto, e poi sono andato a farlo avanzare, e fanno di poi, ha toccato la rete, nel zonco. Non vedi perché sono vedi, volano, e dopo ho fatto anche il rumore, una sirena fa. Così è così. C'est la vie, c'est la vie. Aspetta, aspetta un secondo, fa un attimo di piano. C'è qualche modulazione sottofondo che dovrebbe avere una registrazione. Aroma, aroma, se non è che ci tuffurica la modulazione. Senti, sì. Basso, basso però. Basso, basso, basso. Ma mi pare la voce di me, la voce tua? E come la voce tua? Distratta. Registrata? Via. Ma da te? No, no. E sarà te di cui ci si mira? La si rabbina in luce, che si chiama. Una cosa è certa, se la voce è mia, riesco a procchiero di luce. Eh beh, quello è poco ma sicuro, Braga, braga. Dai, lo sapremo, su 45 stiamo. E su 45 siamo. Cappa. Dai, scendiamo, su 5 normale. Cappa. Cappa. A bisese. Entra nel viso. C'è nessuno qua, non c'è nessuno qua, non c'è nessuno qua, non c'è nessuno qua. La. La di Lola. Avanti Lola. Oh, ci sono io già che sto chiudendo un capo baracchino, riprendo subito già. Hola. Capa. Oh. Buongiorno anche lì, con chi abbiamo di parlare? Sì, ma ci vuole molto. Guarda, ha fatto il frigerito, il presidente della Cina. Ehi Mario, hai una voce diversa oggi, Devo dirti che cambia totalmente. Sì, perché tu sai bene, noi che ce l'ho uno da parte Marachino, ogni tanto la 101, capite cose varie, e dopo anche abbiamo messo sempre più bene, forse non l'hai saputo, ero due giorni ricoverato in continua carica per causa diabetica, capito? No, negativo, non mi hanno detto niente. Cos'è avuto? Lo sbalzo di glicemia? Ho avuto molto sbalzo di glicemia, e qui non mi hanno nemmeno ricoverato, mi hanno tenuto due giorni per il controllo in quel reparto nuovo che ti hanno messo, che hanno fatto tutte le analisi, tutto bene, soltanto mi hanno lasciato il furto, un paio di furti di portarli al centro diabetico, che mi regolavano un po' la glicemia, l'insulina. Probabilmente non va più bene il tanto che fa. Chi lo sa, no, ce l'avevo sempre, non lo so, un giorno passo, un giorno largo, può darsi anche che non sia la macchinetta del controllo, bisogna domani che ci vado e vediamo, ci porto anche la macchinetta. No, non può essere, perché ti hanno ricoverato hanno un'altra macchinetta, mica tanto tra la nuova, la tua e la glicemia era uguale. Può darsi che la macchinetta mia, che mi ce l'ho già la bellezza di 5 anni, capito? Ce l'ho già parecchi anni. Allora andavo bene, andavo a cose l'altra, ma in tutti i casi mi hanno detto a farmi controllare anche tutto e a portargli la macchinetta. Così. Allora era tranquillo la glicemia. E a sbalzi, bassa, alta, 340, 90, 75, 120, a sbalzi me la faceva la macchinetta. Ma non è che ha mangiato qualche cosa in questi giorni che ti possa aver causato questo? Tipo dolci, zucchero, roba grassa. Guarda già, basta adesso, non mangerò più coso, panettone, né colombe, nulla, perché mi hanno detto la colomba soprattutto porta certo guai, più del panettone più dei dolci. Ha fregato a me la colomba. Allora ecco lì, basta che tu elimini queste cose e poi ti trovi normale, non c'è manco bisogno di prova tu a controllarti. Io penso che tu, mangiando normalmente, come mangi sempre. Non dovrebbe più succedere, comunque vai e controllati lo stesso. Perché già lo sai che io esperienza ne ho in queste cose. E quindi noi poco fa alle 5 meno un quarto me l'ho controllata, ce l'avevo mangiato regolare, molto bassa, ho mangiato e via dicendo, ce l'avevo regolare, capito? E ieri lo stesso, quando sono venuto a casa, me l'ho misurata 3 volte, 120, 110, capito, e 127. 27 comincia già a essere alta. Ma comunque se rientri sempre nella norma va bene. Comunque tu facendo l'insulina dovresti averla regolata al 100%, Maria. Io l'altro giorno l'ho misurata perché mi sentivo un po' strano e ce l'avevo un bel bassa, ce l'avevo a 37, 38, boh, non mi ricordo. Ma basta, non capisco il perché. Allora mi ho mangiato qualche cosa di dolce e subito me l'ho fatta salire. Ma a me quel reparto, quando mi hanno visitato, quasi la glicemia già informerà il centro diabetico, io lo sapevo già, no? Anche se dovessi passare il 170, siamo anormali, capito? Perché piano piano si mette a posto lo stesso, capito? Pericoloso quando incominci a passare il 300, il 250. C'è gente che l'ha avuta anche a 500, ma come diabete a più? È vero, logica, oggi bisogna darci una regolata, basta, no. Non mangiano più panettone, né cioccolate, né nulla, anzi mangiando oggi ho tinto soltanto un bicchiere di acqua col vino e buco. Infatti, basta vedere mangiare coccale, Mario, basta e pane, ricorda, pane metta a farina svuotato dalla bollicca. No, ma pane, sono già più di 5 anni che sto mangiando a pane che carasale, capito? Hanno una forma soltanto e buco, come basta, già ne mangio sempre poco. Paga, falchetta, guarda. Kappa, salutoni Mario, ben sentito e ben entrato. Ma perché non ci dà? Scusa perché non ti avevo sentito a te, porca la miseria. E altrimenti non ti avevo fatto entrare. Buongiorno, vuole scusa di nuovo, perché? Non c'è problema, anche te devi scusare, non c'è problema. Piace anche ascoltare, no? È giusto che sia così, dai. E allora Mario, sei stato all'ospedale, così. Sono stato in ospedale, non ho ricoverato, no. In quel reparto ambulatoriale che hanno fatto tutto l'uomo, capito? E lì perché adesso sai bene, prima di fare il ricovero li fanno tutti gli esami in questo reparto, capito? Io sono stato dalle 8 ieri mattina e mi hanno mandato via alle 3, ma prima di me. Dopo di me, non sai quanto ne sono venuti, una diecina, non sono stati più di 2 ore e l'hanno mandato via. A me, invece, l'ultimo che hanno, ce ne mandate a me, perché adesso non c'è più posto all'ospedale, capito? E così che prima di fargli il ricovero lo tengono in osservazione il tempo che ci vuole, gli fanno tutte le analisi dalla Z, se per caso trovano qualche difetto, una maniera o l'altra, perché uno no, sentivo io come ero sdraiato sul mio lettino, dice guardi all'ospedale non c'è posto, sono tutti piedi, lo mandiamo alle cliniche universitarie, quindi sempre subito a questione. Cappa di Rosso, vabbè, l'importante è che tutto sia andato per il meglio, dai. Io sì, grazie a Dio, non posso lamentare, ho passato una giornata tranquilla, felice e contento. Hai capito già, non c'è più posto all'ospedale. Sai cosa stanno facendo? Se non c'è posto nel reparto specifico ti mandano un altro reparto, una fottuta. Dopo come ti curano, ti curano, perché c'è un reparto specifico per una certa cosa. tu che abbia una cosa, che atterrato ti mandano dove c'è posto e posto. È in qui, ho sentito questo ragionamento ieri, no? Che e così hanno fatto uno, in quel reparto che doveva andare, non c'era posto e l'hanno mandato in un altro reparto. Già l'ho sentito questo ragionamento che ha fatto il dottore al paziente. Io sai che sono in mezzo, già ne so queste cose. Paga. Diciamo che stiamo finendo male con la sanità, siamo finiti male. Io una volta ho fatto dalle 10 di sera alle 3 meno un quarto di mattina. Beh, logica, quando è così, porca la miseria. No, ma io sono stato un po' di ore, ripeto, sono stato dalle 8 del mattino. Se ne è mandato, sono lasciato in 5 ore, sia. Paga. Lo stesso io. Dopo perdermi di ritornare lì domani, il coraggio bello facente lei mi ha fatto aspettare tutte queste ore per dirmi di tornare domani, ma non c'è nessuno adesso qua, là, bomba. Insomma, la lastra non la può fare nessuno, io ci avevo il menisco praticamente spappolato, legamenti rotti, insomma, e non posso mai. Ripete, ma che... purtroppo è così, c'è troppa mala sanità, è un casino, sta diventando un casino, diciamocelo da prima, figuriamoci adesso. Da quando ci sono quelli giovani sta facendo un casino nero. Quasi ti augurano che ti muoia la persona che porti, perché una volta ho parlato a mio padre, questo dottore ci ha detto, piano, con le batte piano, e che cosa vuol dire con questo qua? Guardi che può crepare prima lì di qui, non lo sa. Mettono questi qua che fanno tirocini, compagnia bella, non se ne comprende più nulla. Già in tutta Italia, non solo gli ospedali che abbiamo in Sardegna, già è tutto male messo a capo a terra, già. Gli altri non cambiano il programma e fanno legge nuove, poveri noi. Come ti stavo dicendo, l'altra volta quando sono andato a scuola ho trovato la figlia di un'amica mia che abita in Inghilterra da tanto tempo e lavora in ospedale perché lei gli piaceva l'inglese, è andata ad abitare in Inghilterra e si è trovato il posto all'ospedale come infermiera professionale. Metto lì, se succede, allora, il massimo che ti fanno aspettare è un quarto d'ora. Se succede che dopo il quarto d'ora non ti chiamano, vanno subito dall'avvocato e si fanno pagare tutti i risarcimenti danni, tutto quanto. Quindi il dottore che non ha chiamato rischia il posto di lavoro, gli mettono multe salate, rischiano il posto di lavoro, eccetera. Quindi se ne guardano bene prima di non farlo, queste cose qua. Non è capitata come è capitata a me, non lo sapevo ieri, come ero in quella camera grande. Allora no, siccome c'ho un nipote, figlio di mia sorella, è sposato, no? A quando, siccome ha visto a mio figlio, e tu cosa ci fai qui, il cugino? No, oggi è Pablo ricoverato, il reparto. No, è venuto. E sta facendo quello che facevo io, la guardia giurata, hai capito, all'ospedale. Proprio viene bene la moglie, alle due, ma che è un po' prima, che ha preso sei figli, prima è entrata in borghese, perché aveva detto il marito che era alla guardiola. Gli era detto mio nipote, ed è venuta, e mi ha detto cosa fai qua? No, sono entrata infermiera, sono entrata già un po' di tempo. Ho avuto una sorpresa non tanto indifferente. Ma quelle che ci sono lì non sono proprio guardie giurate, ma non sono armate, sono tipo usciti così. Sì, già lo so, quelle che che fanno servizio, sono sempre guardie giurate, capito? Private, però non sono armate come ero armato io, già lo sai, mitra alla mano o pistola, sembrava lì alla guerra di Corea. Sei bravo, ma fate perché? Altri tempi quelli, ma gli altri tempi erano, adesso ormai un po' tutto è cambiato il sistema, dai. Ma fa che tu le conosci il campagno quando faceva la guardia giurata al banco di San Luis? Capo che l'ho conosciuto. Erano in Succio due, no? Quell'altro si era ritirato, con Succio ha aperto un nuovo istituto. Per parecchi anni sono stati, dopo piano piano, oggi è tutto pieno di istituti, da Olbia, dal continente, da ogni parte, è tutto pieno di guardie giurate per il motivo, perché erano chiesto gli ospedali, tante altre cose, però quelli lì non sono armati, come hai detto tu, oggi. Ma se succede qualche cosa, io gli ho visto così all'ospedale, uno si è venuto scoltello una volta volendo in chiave, l'abbiamo bloccato Edoardo, l'abbiamo disarmato e cose, e gli abbiamo tutto il coltello alla mano. Ed è venuta anche la polizia per questa cosa, però la guardia giurata l'ho fatta mettere venire in quanto lui non era armato, usava diciamo. Hai chiuso tutto già? Ah no, cosa c'era? Luigi? Adesso Luigi? Io che stavo riordinando e ascoltando e stavo facendo cose. Continuate perché mi sto mettendo, sistemando la roba qui in magazzino, capito? Rimango in ascolto, riprendete voi, dai, che sono riordinando qua. Ok Luigi, va bene, fa pure con pazienza, perché la cosa fatta piano piano è più seria e più in gamba. Avanti lui, che ho già. E comunque Mario, già va bene, dai. Potete trovare lavoro che ci riuscia. Edoardo non è come partito in continente a lavorare, è passato da un istituto all'altro, sempre prendendo di più di stipendio. Adesso l'hanno messo al blindato, fa dalle 7 alle 2 a finire di lavorare. Beh, io ho un lavoro massacrante, no adesso è tutto fatto di signori, è tutto. Io quando ero entrato a fare la guardia giurata ancora avevo le biciclette, non c'erano né banche, né ospedali, né nulla, soltanto le zone dove c'erano i negozi che hanno, chi voleva la vigilanza dovevano pagare, capito? Io avevo la zona di centro, e parecchi anni sono stati in bicicletta la notte, a tutti gli altri le temperie, più di una volta sono fuggito a casa di vero, a ciabarmi, a parte franchezza. Di zorro, con il ricordo. Un attimino che hanno suonato il campanello, riprendo subito. Stavi dicendo già. Che avevate il mantello di zorro? Cosa, no, ho capito, dopo piano piano, la moto, le macchine, via dicendo, così che adesso sono tutti sono ben custoditi, è un lavoro più tranquillo e tutto. Vabbè. E tranquillo, quello che non succede in un giorno può succedere in un secondo, quello che non succede in 10 anni può succedere in un secondo, già lo sai come. Sì, non dico tranquillo per la vigilanza, dipende ne un malanno a tutte le temperie. Che appagare. Tu sei di tranquillo, tu facevi il banchiere. Ma il banchiere l'ho fatto dopo 5-6 anni, L'ho fatto. Andavo in banca e hanno cominciato a chiedere le banche, cose varie. Mi aveva chiamato. Il Cosmo mi aveva chiamato, ha detto dell'istituto, c'era il babbo allora, mi ha detto, guardi, ci hanno chiesto le guardie lì al Banco di Sardegna, anzi prima era lì, la guardia le aveva chiesto lì, la direzione generale, quello che è in via Lomberto. E no, e così che si fa la squadra, lo passo un brigadiere, si fa la squadra e si scelga il nome che fa, che vuole. E così che si fa il servizio là. A noi ci basta la telefonata che tutto va di bene, è tutto tranquillo. Così è stato fatto. E a quell'ora già me lo ricordo. Biasiato, con te, a me. Sì, Biasiato era. E non avevo fatto entrare io a Biasiato. Allora, l'avevo fatto entrare io direttamente, avevo parlato con la direzione, avevo parlato, guardi, c'è un amico così. Ciò. L'ha fatto venire, l'ha fatto fare i documenti, l'ha fatto fare, è entrato, no? E così che è rimasto sempre sino che è deceduto. Ecco, io non so quanto ci andavo alle vite di sale, sta a farmi compagnia, quante nottate di sabato. Allora, perché lui faceva servizio lì alle vite di sale? Ma ti sequestro era. Tutto fatto. Oh già, io mi assento un momentino, magari ci sentiamo più tardi, capito? Ciao, per il momento e grazie della chiacchieratina. Ehi, vabbè, ci sentiamo, ciao. Mai. Ok. Sento fatto. Ehi già. Mi sa che adesso mi preparo e fai come fa che noi stiamo a passo con la roba e abbiamo risolto il problema. Ehi, quando vuoi, fai chiamata, già sono qua a 5, dai. Ehi, mi sciacquo un po' la faccia adesso, dai, non vedi? E poi fai. Ehi, fai chiamata, già sono qua in ascolto, dai. Calma. Ciao. Ciao.